Siamo con Tommaso Ippoliti per parlare della seconda edizione di Concorto al Teatro San Genesio a Roma dal 3 al 6 maggio. Tommaso, benvenuto. Ciao, ciao Federico, grazie. Allora, si tratta della fase finale, ci racconti un po'? Sì, dunque, è la fase finale durante la quale si esibiranno i 9 corti teatrali che sono stati selezionati al termine di una selezione che partiva da 82 proposte, addirittura arrivate da tutta Italia. Andiamo in scena da giovedì 3 fino a sabato 5 con le 3 serate eliminatorie. Durante ogni serata si esibiranno 3 spettacoli, poi al termine di ogni serata il pubblico presente in sala decreterà un vincitore che sarà ammesso alla serata finale, che è quella del 6 maggio, di domenica. Poi chi sarà premiato, cosa vedrà all'orizzonte? Dunque, al termine della serata finale il pubblico presente in sala con lo stesso meccanismo delle eliminatorie voterà il corto vincitore del concorso, il quale si vedrà assegnato un premio di 1000 euro. E poi una giuria artistica invece attribuirà un premio della critica di 400 euro. Ok. Poi si apriranno delle finestre per delle messe in scene. Questo è quello che speriamo sempre, cioè noi speriamo che da questa iniziativa possa nascere l'opportunità per avviare nuove collaborazioni con le compagnie che andranno in scena. È stato così ad esempio per la passata edizione, perché il testo audizione che aveva partecipato al concorso è in scena proprio da oggi qui da noi, fino a dopodomani. Visto che siamo alla seconda edizione, ci racconti un po' com'è nata Concorto? Dunque, è nata un po' con spirito di sfida, diciamo, è nata dall'idea di dare sostegno a produzioni teatrali nascenti, quindi abbiamo pensato che dare un contributo economico a un progetto artistico potesse essere una buona cosa. E poi abbiamo pensato anche che potesse essere una buona occasione per dare spazio, a idee e talenti che magari solitamente faticano a trovarne. Senti, considerato che vi sono arrivate decine e decine, come dicevi prima, di proposte da tutta Italia, che panoramica hai potuto vedere? Che idea ti sei fatto rispetto a qual è lo stato dell'arte oggi in Italia rispetto alle proposte, le nuove proposte teatrali? Dunque, a giudicare dalle proposte che abbiamo ricevuto, lo stato dell'arte è un ottimo stato, nel senso che le proposte sono state davvero molto valide, anche molto varie per tipologie, per linguaggi. Tanto che è stato davvero difficile fare una selezione così ristretta, per scegliere i 9 finalisti. Noi abbiamo cercato anche nella selezione di rispecchiare la grande varietà, che c'era all'interno delle proposte. Senti Tommaso, tu dirigi anche il teatro San Genesio, ci racconti un po' di questa esperienza? Da dove comincio? Beh, è un'esperienza bella e esaltante, insomma, noi siamo un'associazione culturale, gestiamo il Teatro San Genesio dal 2004, con alterne fortune, ma con un percorso di crescita direi abbastanza netto nel corso di questi anni. Abbiamo cercato e cerchiamo di dare spazio a giovani realtà emergenti. Abbiamo avuto per 10 anni una rassegna di teatro civile e di narrazione, facciamo molta musica, abbiamo in collaborazione con un'altra associazione, con la Wonder Wall Entertainment, abbiamo una rassegna musicale, Vitala Festival, che va avanti ormai da 6 anni. Insomma, non saprei come descrivere in poco tempo l'esperienza nella gestione e direzione di un teatro, però è senz'altro una bella avventura. Senti, Allora, ricordiamo la seconda edizione, la fase finale della seconda edizione di Concorto al Teatro San Genesio, qui a Roma, dal 3 al 6 maggio. Tommaso, ci ricordi gli orari? 4 e 5 maggio alle ore 21, e invece il 6 maggio la finale alle 17:30. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Trevi lupo e grazie, a presto. Ciao.